pagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Paradossalmente, tutte le volte che io parlo di videogiochi in questo orario radiofonico, che apparentemente dovrebbe non essere percepibile a coloro che sono, secondo un luogo comune o anche numeri statistici accertati, fruitori di videogiochi, ho un grandissimo successo. Quindi probabilmente chi videogioca, o tra le tante persone che videogiocano, o tra le tante persone che usano la macchina di fatica, di lavoro e di impegno che è il computer, anche come macchina d'evasione, ce ne sono parecchie che a quest'ora ascoltano la radio. Quindi anche per loro, ma non soltanto per loro, dedico questa trasmissione. L'esatto allineamento dei pianeti necessario per attivare il triangolo avviene solo una volta ogni 5.000 anni. Ma si verificherà che la piccola Lara Croft avrà tempo sufficiente per crescere e trovarlo. Alla signorina Lara Croft, senz'altro seducente, che ho visto mutare attraverso gli ultimi 10 anni, non soltanto nel suo abbigliamento, non soltanto nella definizione dello scenario di gioco, ma anche nelle sue forme fisiche. Io posso dirvi tutto di Lara Croft perché c'è un figlio appassionato di Tomb Raider, addirittura al punto tale di avermi costretto a ricomprare i vecchi giochi, quelli che furono pubblicati quando lui ancora era bambino, ancora prendeva il ciuccio e sillabava, perché ha voluto provare questa meravigliosa sensazione che è equiparabile probabilmente alla nostra quando sfogliavamo dei libri di lettura dei nostri genitori. Io ricordo quelli dei miei genitori, ancora libri di lettura delle scuole fasciste, che sembravano appartenere a un'epoca totalmente distante alla nostra, o quelli di avventure di ragazzi dei miei zii, che avevano quel profumo di antico, di vecchio, quella muffetta polverosa di soffitta dei nonni che dava una patina meravigliosa di passato, di rievocazione di mondi che ci appartenevano soltanto perché entravamo in possesso della chiave per entrare e per scardinare il muro del tempo, che allora era un libro, oggi è un videogioco, comprato magari su eBay perché non si trova più in commercio. E guarda il ragazzo l'antica grafica, la grafica molto sommaria, rozza rispetto a quelle attuali che richiedono un continuo upgrade delle schede video e quindi un impegno economico da parte dei genitori. Dice: guarda, era bella Lara Croft degli anni 90. Dico: ma è orribile, guarda quanto è brutto. No, ma è bello perché le storie erano molto più belle. E si vede la differenza, come si vede la differenza dei fumetti di Topolino degli anni 50 rispetto a quelli degli anni 90. Si vede la differenza di tutto ciò che il passato, il tempo segna con la sua patina seducente. Ma noi immaginavamo che il prodotto di una elaborazione di un programmatore di computer non avesse la possibilità di coprirsi di questa fascinosa patina. Invece è così. E il fatto che il videogioco sia ormai un'attività che non appartiene più soltanto ai ragazzi, non è più una sorta di attività compulsiva che allontana i ragazzi dalle più educative ed analogiche attività. Vedo che c'è stata recentemente una ricerca all'Università Cattolica di Milano che, come al solito, è preoccupata perché il 44% degli under 13 passa il pomeriggio a fare videogiochi invece che uscire, fare nascondino, andare con gli amici in giro. Vabbè, provate a uscire di questi tempi per una città il pomeriggio in mezzo al caos. Dove vi andate a nascondere? Dentro i cassonetti della spazzatura. E gli amici come i protagonisti delle nostre vite genitoriali e affettive, sono oberati da un'infinità di compiti da fare, di palestra da frequentare, di strumenti musicali da apprendere, di arti marziali e via dicendo. Hanno pochissimo tempo. Quindi la fuga nel mondo parallelo attraverso il videogioco diventa per loro una delle attività preferibili. Tropico vi mette nei panni di un dittatore di una piccola isola tropicale. L'obiettivo lo potete scegliere voi stessi. Può essere quello di accumulare ricchezze personali su conti protetti in Svizzera o rendere felice la vostra popolazione. Dovete gestire risorse limitate e costruire case per i vostri concittadini, miniere per sfruttare le risorse minerarie, scuole per istruire i vostri giovani, stazioni di polizia per controllare la criminalità. La personalizzazione va fino alla possibilità di definire le proprie caratteristiche psicologiche. Qua entriamo in un altro tipo di giochi, un altro tipo di mondi paralleli, di ricostruzioni ideali attraverso la tecnologia digitale, e per dare corpo, seppur volatile, seppur intangibile, alle nostre fantasie. Giorni fa sulla Stampa Bruno Ruffilli fece un'interessante inchiesta su questo tipo di giochi. Sono i giochi che permettono di entrare nel personaggio che noi sempre abbiamo desiderato di essere, come appunto Tropico, che dà l'idea che in un'isola, potrebbe essere l'isola di Cuba, con campi di tabacco, banane, canne da zucchero, c'è un dittatore che potrebbe ricordare Fidel Castro, che controlla la produzione di rum e sigari. Quindi si diventa il dittatore dello stato delle bananas, diventa una cosa meravigliosa. Ma ne esistono altri, esiste Populus, che si può diventare un dio greco. Quindi immaginiamo avere un Olimpo a disposizione, con deità affascinanti e terribili che al nostro comando compiono inimmaginabili operazioni. Poi c'è la vecchia SimCity, che sarà probabilmente migliorata anche nella grafica, me lo ricordo una decina di anni fa, che permette di costruire un mondo. Quindi giochi per adulti, giochi immersivi, ma al punto tale interessanti e importanti che recentemente ho letto che alcuni videogiochi, soprattutto quelli di tipo immersivo, le console che permettono di giocare con il movimento del corpo, semplicemente muovendo il sistema di comando, muovendosi davanti allo schermo attraverso un campo generato appunto da un ricettore, da un trasmettitore, più o meno funziona così, si diventa la figura del videogioco. E pare che portando questo tipo di attività in un centro anziani permette di mantenere vivo e allenato il cervello delle persone che altrimenti stagnerebbero in un centro anziani a giocare a boccia, a giocare a carte o a guardare come lucertole il sole che le riscalda, però li potrebbero, limitatamente alle loro capacità fisiche, ricostruirsi delle attività. Ma quanto è importante oggi dare realtà al mondo illusorio creato da un videogioco? Quanto l'illusione fa parte della nostra realtà, visto che cominciamo a considerare il mondo non unicamente in quanto concreto e tangibile e perimetrato dai nostri sensi, ma anche quanto fascinosamente circoscrivibile dalle nostre emozioni, come se fossimo in un grande e immaginare un sogno generato da una macchina. 800240024. Solo l'oscuro apre e chiude la porta per Silent Hill. Per favore, non so che sta succedendo. Tu sai che sta succedendo qui? Mia figlia. Io cerco mia figlia, ho paura che le abbiano fatto del male. Abbiamo perso tutti i nostri figli, la nostra luce. Mi hanno ingannata. Loro sono il male, sono l'odio. Nel fuoco lei inghiottì il loro odio. Qua invece siamo a Silent Hill, che è un film e un videogioco che si guardano specularmente. Una storia terrificante, un clima surreale, un ambiente che lascia impressi per la sua glaciale possibilità di essere veramente contigua con la nostra realtà. La bambina che, seguendo i suoi sogni di sonnambula, va a Silent Hill, è questa città perennemente coperta da un velo di cenere, con presenze inquietanti, uomini bruciati, grossi insetti, personaggi stranissimi che entrano e escono. Poi si scopre che dietro c'era tutta una sorta di follia, una specie di setta demoniaca tenuta da una santona, qualcosa del genere. Beh, in questo caso il piacere del giocatore è quello di avere questa doppia conferma, questa speculare esistenza di un mondo rappresentato da un film che si vede, si segue emotivamente, si partecipa come spettatori. E poi si riesce ad entrare di persona nel meccanismo del film attraverso il videogioco. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei sa di cosa sto parlando, perché è un figlio di 11 anni, videogiocatore. Sì, una bambina di 11 anni. Ecco, io volevo dire questo qua. Sì, mia figlia usa il videogioco, alla Wii, a Nintendo, però ci gioca poco, nel senso che in prima media sono oberati dai compiti. E quindi quando mia figlia gioca al videogioco è un attimo di svago. E poi soprattutto quando giocano ai videogiochi con la PlayStation hanno questa telecamerina particolare che gli permette di fare questi giochi che perlomeno li fanno muovere, combattere. Per cui volevo un attimino statare il fatto che i bambini dagli 11-13 anni, o comunque quelli piccoli, giocano molto alle PlayStation o ai videogiochi. Hanno da studiare, purtroppo. Beh, purtroppo è anche giusto che lo facciano. No, nel senso che hanno ridotto l'orario scolare. Sì, diciamo che è vero. Io non ricordo che si studiasse tanto alle medie, e vedo adesso anche al ginnasio, visto mio figlio va al quarto ginnasio. Ai miei tempi perdevo molto più tempo, oggi studiano molto, questo è vero. A 30 libri. Sì, sì, questo è vero. Però è anche vero che i momenti che hanno di tranquillità e serenità, che di solito comincia a essere verso le 8 di sera, che hanno finito i compiti, in quell'ora, due ore che li separa da dover andare a letto, in effetti non è che ci siano molte attività da fare dentro casa che non fare i videogiochi. Infatti, purtroppo è questo. Comunque anche molti bambini il pomeriggio, quando sono le belle giornate, sono fuori nei giardini, questo glielo posso assicurare. Grazie Daniele. Abbiamo adesso un problema da affrontare. Il videogioco viene considerato ancora come le attività, trapelato dalle parole di questo nostro ascoltatore, che vengono tollerate nel migliore dei casi, ma considerate come attività deleterie, demolitrici della compattezza culturale di un ragazzo. Lo so bene perché mi sono confrontato per tutti gli anni delle scuole medie, mi sto cominciando a confrontare anche adesso con gli insegnanti dei miei figli, ma con gli amici che hanno figli e via dicendo. Esiste sempre un muro, una barriera. Non viene mai concepito dall'istruttore, dal docente, l'attività del videogioco come attività perlomeno complementare rispetto alla lettura, rispetto all'attività di studio, rispetto al sapere che passa attraverso supporti tradizionali. Io vi dico il mio parere. In parte hanno anche ragione, perché il ragazzo che leggeva, studiava, si interessava, sviluppava la fantasia, se viene lasciato un attimo a se stesso ed entra nel meccanismo perverso del videogioco compulsivo, non ne esce più. Vanno seguiti. L'attività del ragazzo videogiocatore in famiglia può essere un'attività importante, può essere un terreno neutro di incontro fra figli e genitori, può essere una maniera per far capire, per intendere, per spiegare i fatti della vita a un ragazzo, ma non può essere una facile maniera perché si chiudono in camera e ne rompano le scatole. 800240024. SimCity trasforma il giocatore nel sindaco di una città da costruire da zero, dandogli carta bianca sulla costruzione di centri commerciali, industriali e residenziali, rispettando ovviamente il budget disponibile. Per complicare il già difficile compito di gestire la città, ci sono una serie di disastri che possono abbattersi sulla vostra creazione. Tornado, inondazioni, incendi, disastri aerei, mostri, terremoti e, a partire da SimCity 2000, anche le sommosse da parte dei cittadini. È molto cambiato anche SimCity rispetto alle prime edizioni, in cui erano delle tranquille famiglioline che si costruivano via via, ecco, accadeva molto poco, era un gioco lungo, noiosissimo, io mi ricordo mi stufai, l'unico momento bello era quando in cucina la madre prendeva fuoco, si incendiava, se non leggeva prima il libro di cucina. Ricordo ancora una volta che mio figlio, che allora era bambino, ne rimase molto turbato, molto colpito, ma fece allora, pensate, una trasmissione alla radio. Raffaele Sogni, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Gianluca. Allora, Raffaele è un collega, un amico, molte volte già partecipato alla nostra trasmissione, un esperto di videogiochi, opera nella rivista Game Machine. Raffaele, rispetto a intanto le prime impressioni che hai potuto ascoltare in questa trasmissione, mi sembra di capire che l'attività del videogioco stia cominciando da una parte a uscire da questo cono d'ombra maledetto. Altre volte siamo sentiti, abbiamo parlato di tutte le varie associazioni familiari, genitori, propri educatori che hanno sempre considerato e indicato la console, la tastiera, le periferiche per giocare come i luoghi della massima tentazione. E d'altra parte si comincia a entrare in un ordine di idee per cui il videogioco non è più legato semplicemente a stare seduti davanti a una tastiera, ma a fare delle attività come si potrebbero fare in palestra. Si comincia ad entrare in qualcosa, in un ambiente quasi di immersione nel gioco. Sì, è assolutamente vero. Il futuro sicuramente è rappresentato da una maggiore interattività proprio con l'ambiente che ci circonda. Io mi immagino un futuro, spero non molto lontano, ma comunque non certo vicino, in cui ci sarà un ambiente olografico intorno a noi in cui noi potremo interagire proprio come, non so, mettendoci sulla poltrona, circondati da una macchina virtuale e guidare con un volante semivero attraverso una pista, in modo che comunque da ricreare un ambiente che ci circonda. E non più quindi legati a un televisore, a un monitor, che sia. Bisogna anche dire che la parola videogioco non è che ci aiuta tanto, in Italia più che in altri posti, è un po' come diciamo il film d'animazione, che viene sempre considerato come un prodotto destinato a un pubblico. Ecco, sì, tu che hai una rivista specializzata, lavori in una rivista specializzata ai videogiochi. Puoi darci delle indicazioni allora sul punto di riferimento, sul target, sull'utente? Noi pensiamo siano ancora delle attrezzature per ragazzi o per adulti che non hanno mai abbandonato il loro infantilismo, ma non mi pare sia proprio così. Non è proprio così, la situazione sta cambiando rispetto a molti anni fa, dove comunque il videogioco era indirizzato a un target di appena maggiorenni. Oggi vediamo che e lui il successo della console Wii di Nintendo lo dimostra, sempre più persone adulte, seppur che casual gamer, cioè persone che comunque con i videogiochi hanno poco feeling, si affacciano a questo mondo e insomma si divertono, però ecco, senza esagerare nelle ore, perché si tratta di videogiochi particolari che comunque non richiedono, salvo eccezioni, comunque anche per lui ci sono giochi per videogiocatori molto appassionati, comunque non richiedono un tempo tale da portare via un pomeriggio piuttosto. Il vero meccanismo del videogioco è la difficoltà. Il videogioco, lo dico per gli assolutamente profani, in realtà è un percorso a vari livelli, e bisogna superare alcune prove, quindi passare attraverso alcune situazioni in cui ci sono delle soluzioni, delle chiavi, delle aperture segrete, acquistare dei punti di forza, combattere dei nemici, superare delle prove, e man mano che si progredisce in questo percorso poi si arriva a una sorta di battaglia finale. Beh, non è sempre così, questa è la forma migliore, la forma più elaborata, perché un'avventura, ci sono videogiochi e poi si spara e ci si picchia soltanto. Cioè, Max, i generi sono veramente tantissimi, poi ovviamente ognuno ha i suoi preferiti, io prediligo quelli di corse e gli FPS, cioè gli spara tutto in soggettiva, poi c'è gente che non vive senza avventura, gente che non vive senza strategici in tempo reale, insomma i generi diciamo che gli spara tutto sono dei sistemi di relax. Uno si vede il fucilone o il mitragliatore o il raggio laser in mano, va avanti, spara, annienta, è come un tiro a segno, un tiro al piccione, adesso gli animalisti poi se la prenderanno, che si fa semplicemente per scaricarsi i nervi, visto che poi non muore nessuno, alla fine tutti tornano felici e contenti a casa. Ci sentiamo tra un istante, dopo le informazioni dalla borsa, 800240024. Quanto detestate, quanto amate, quanto godete, quanto vi sentite in colpa dalle vostre personali, da soli, con amici, frequentazioni con i videogiochi? A tra un istante. Melog 2.0. Mi chiamo Alice. Lavoravo per la Umbrella Corporation, la più grossa e più potente società commerciale al mondo. Ero capo della sicurezza in uno stabilimento segreto ad alta tecnologia chiamato l'Alveare, un gigantesco laboratorio sotterraneo per la ricerca sperimentale sulle armi batteriologiche. Ma c'è stato un incidente. Il virus si è propagato e sono morti tutti. Il problema è che sono resuscitati. E via partono gli zombie. Quanti suggestioni sono nate da Resident Evil, dal gioco che più denigrato, più vituperato, più condannato e quindi maggiormente fortunato probabilmente nella storia dei videogame. Ogni volta che un'associazione di genitori ben pensanti faceva un proclama, metteva un manifesto, raccoglieva firme, chiedeva sentenze di condanna nei confronti di questo gioco, la casa produttrice ringraziava prendendo pagine sui giornali dicendo: grazie a voi abbiamo venduto un numero spaventoso di copie di questo gioco. Poi è anche diventato un film, poi anche scocciato perché di morti putrefatti in giro per la strada ci siamo un po' stufati, vedendone ogni giorno ampiamente. Basta entrare in una metropolitana, basta guardare le facce dei colleghi al di là del vetro di questa regia, e quindi la realtà ha superato il gioco. Mi chiede un ascoltatore via Facebook qual era la musichetta che il professor Alessandro Chiappini, che è il nostro fornitore di documentazione anche di videogiochi come di B-Movie, ci ha fornito. Beh, si tratta di Tetris, è un gioco che dei primi anni 80, l'84, è stato inventato da un povero signore russo che però non l'ha brevettato e quindi ne hanno fatto scempio. Sentiamo Max, che da molto resta al telefono. Max, buongiorno. Ciao, buongiorno. Io non so da dove cominciare, perché ho tre giochi che mi hanno cambiato la vita, o almeno migliorata. Vediamo in ordine cronologico, qual è il primo gioco e cosa l'ha cambiato della vita? Il primo gioco mi ricollego al gancio 2 di Resident Evil, perché praticamente quando mi sono rotto la gamba mi ha salvato dalla pazzia mentale, perché la sera mi mettevo lì con questa macchina che mi muoveva le ginocchia. Beh, guardare i morti putrefatti di Resident Evil e pensare che sia un antidoto alla pazzia è un bel salto mortale. Sì, perché poi era una brutta situazione in famiglia in quel momento. No, però mi ricordo, guarda, nell'immagine, poi lo strano è che parlando anche con altre persone hanno la stessa sensazione, era l'ansia nel giocare, soprattutto al primo. Il primo era, diciamo, era divertente perché era uno sparatutto, ma anche dovevi indovinare gli oggetti, le cose. E io avevo questa gamba rotta che mi faceva malissimo, però mi distraevo col gioco nella tensione di scappare dai zombie, da scoprire... Sì, c'era uno zombie che si sparava e partiva proprio la gamba disossata, quindi c'erano anche delle similitudini con la sua situazione. E poi un altro, non so se lo conosci, è Grim Fandango. Non so se la conosci, è un gioco fatto nel mondo degli scheletri in Messico, fatto benissimo negli anni 20. È peccato perché... Ah, meraviglioso, sì, sì. Della Lucasfilm non è mai stato tanto, diciamo così, riconosciuto. E l'ultimo invece è quando ho conosciuto i giochi in linea, online. Con l'arrivo di internet veloce, con Ghost Recon, lì facciamo gente grande. Io ho 44 anni, gente di 35-37 anni che tutte le sere, invece di incontrarsi al campo di calcetto, si incontra con la console da casa. Online, sì. E si giocava sul computer e lì quasi ci ho rimesso una fidanzata praticamente. E guardi, diciamo che è una situazione che accade. Oggi mi ha portato un collega il Corriere dello Sport, che è un giornale che non frequento abitualmente, dove c'è un pezzo grandissimo a pieno titolo che apre una pagina dove dice che il numero 4 del tennis internazionale, Andy Murray, è stato lanciato da una bellissima fidanzata, la sto vedendo, un mostro di seduzione, che lo ha mollato e ha lasciato anche la loro casa da 5 milioni di sterline perché pare che passasse il suo tempo alla PlayStation. E ci sono tutte le dimostrazioni che in tutti i tornei più importanti, anche quando venne a Roma un anno fa o quest'estate, non ho capito bene, nei periodi di pioggia o di impossibilità di giocare, sta in un angolino con la sua console e giocava. Quindi questo giovanottone promessa del tennis internazionale si è perso una fidanzata e pare anche credibilità sportiva, perché è appassionatissimo di un gioco ambientato nella seconda guerra mondiale. Quindi è anche interessante come domanda al nostro ascoltatore 800240024, chi voi come Max o come il tennista inglese ha messo a repentaglio un rapporto sentimentale, affettivo, sensuale, matrimoniale, monogamico, poligamico o adulterino grazie alle console di videogiochi? Populus. Siete un dio greco e dovete guidare il vostro popolo con lo scopo di azzerare il popolo nemico, devoto a una divinità rivale. Potete lanciare fulmini, creare vulcani, scatenare tornadi. Quando due popolani di credo diverso si incontrano, iniziano una battaglia. La forza in combattimento dei popolani prodotti è direttamente proporzionale alla dimensione dell'abitazione da cui provengono. Ci sono diversi metodi per eliminare la popolazione avversaria. Ad esempio, togliere il terreno da sotto i piedi agli avversari, cercando di farli affogare. Quello che fa normalmente qualunque imprenditore, qualunque strozzino industriale, qualunque profittatore, qualunque speculatore immobiliare, però farlo con un videogioco probabilmente fa versare meno lacrime e meno disperazione. Andrea Dresseno, buongiorno. Buongiorno. Dresseno è responsabile dell'archivio videoludico della Cineteca di Bologna, esperto del rapporto tra cinema e videogiochi. Lei raccoglie, oltre naturalmente alle pellicole dei film, anche i videogiochi che faranno la storia del nostro intrattenimento ludico negli ultimi 20 anni, probabilmente. Sì, anche più di 20 anni in realtà, perché il videogioco ormai ha 50 anni d'età, quindi è un medium che ha una certa età, appunto. L'idea dell'archivio è quella di comunque... Perché dice 50 anni? Faccia capire. Perché il primo videogioco risale al 62, Space War, quindi ecco, diciamo che ormai siamo vicini al 50. Però erano quelli che ancora non erano, diciamo, giocabili in casa, bisogna andare in dei luoghi preposti. Sì, il primo gioco nasce in ambito universitario, all'MIT del Massachusetts, quindi sì, diciamo che sono ancora giochi che non hanno una commercializzazione come quella che vediamo adesso. Non mi ricordo che regalarono quella cosa orribile che era il ping pong e basta, che si attaccava alla televisione, ma saranno stati gli anni 70, 80 forse? Sì, più gli anni 70, era il pong di Atari. Il ping pong me lo regalarono, ci passai un sacco di tempo, c'era anche un fucilino che si sparava e si colpiva, ma faccia, era ridicolo, però è bello perché... fa nostalgia. Diciamo che il videogioco, anche se a volte non si pensa, ha un'età appunto ormai avanzata e soprattutto intrattiene relazioni costanti con gli altri media, quindi dal cinema alla letteratura, al fumetto e a molti altri media. L'idea è quella appunto, con l'archivio videoludico, di cominciare a pensare ad una salvaguardia del patrimonio storico, perché spesso si pensa a salvaguardare media più tradizionali come il libro, le pellicole, ecco, molto spesso non si pensa che anche il videogioco ha bisogno di essere salvato e si rischia appunto di perderlo se non si comincia a... Anche perché, diciamolo chiaramente, io lo so perché sto provando, ahimè, questo massacro in famiglia, se si è un figlio appassionato di retro game, una volta che si è acquistato il gioco attraverso canali più strani, pusher singolari e via dicendo, poi dove si fa girare? Io ho resumato un vecchio computer con Windows 2000 per fargli vedere i vecchi giochetti, perché è sempre difficile trovare emulatori capaci di far lavorare con i nuovi sistemi operativi i vecchi giochi. Diciamo che l'emulazione è un ambito molto delicato, perché è una scienza non esatta, diciamo, che non funzionano mai. Sì, ma c'è anche una questione di diritti d'autore molto forte, l'emulazione appunto è molto pericolosa in questo senso, la cosa migliore è sempre ritrovare la piattaforma originaria e il gioco originario e rigiocarlo nell'esperienza per cui era pensato. L'idea dell'archivio è questa, di salvaguardare un po' alla volta, quindi con molta pazienza, i pezzi storici e non, perché ecco, l'archivio guarda al passato ma rimane appunto aggiornato con il presente, quindi... è nato appunto presso la Cineteca di Bologna in collaborazione con gli stessi produttori di videogiochi ma anche con l'Università di Bologna. L'idea è quella appunto da una parte di conservare il patrimonio e di renderlo accessibile poi al pubblico, quindi non di creare un museo ma di creare un archivio vivo. Quindi come andare in biblioteca, come si va in biblioteca, sì. Si prende un libro lì, si ha la console e si gioca al vecchio videogioco. Sì. Praticamente è questo, quindi accanto al libro, accanto ai film, gli utenti possono accedere ai videogiochi e quindi ad un fondo in costante crescita, sia perché magari semplicemente hanno una passione, sia perché magari devono fare degli studi, perché ecco, gli studi stanno aumentando sempre più, anche tesi, ricerche, e quindi ecco, è importante che questo patrimonio sia reso accessibile gratuitamente e in un luogo pubblico al pubblico. Anche perché, Dressa, non so se lei mi conferma questa mia impressione, parlo per impressioni e esperienze personali, noi abbiamo citato Resident Evil, Silent Hill, Tomb Raider, film e videogiochi che collegati assieme sembra ci sia soltanto un discorso di mercato che fa produrre o prima il film o prima il videogioco o l'uno derivato dall'altro o escono contemporaneamente, ma chi vede crescere nell'esperienza di un figlio il rapporto con questi strumenti si rende conto che sono pezzi dell'esperienza di crescita di un essere umano legati appunto a questi supporti. Facile, per noi era facile dire prendo dalla libreria un vecchio libro su cui hanno letto e fantasticato i miei genitori, i miei nonni, i miei zii e rifaccio la stessa esperienza. Oggi, proprio per le complessità di cui abbiamo detto, riaccedere a questi brandelli di memoria fanciullesca, che è molto importante, rigiocare un gioco in cui si era giocato 5 anni fa per un ragazzo di 14 anni è un'esperienza unica. Occorre però avere anche lo strumento per farlo girare, se no si può limitare soltanto a guardare la copertina. C'è una questione anche di rimanere in contatto con la storia del videogioco, cioè alla fine magari i giovani d'oggi non si rendono conto che c'è stato un percorso di evoluzione appunto tecnologico ma anche narrativo, per esempio, ma anche di gameplay, cioè c'è un'evoluzione che è giusto riuscire a congelare e a catturare e a rendere appunto disponibile al pubblico e quindi a rendere appunto accessibile. Lei è d'accordo? Poi do la linea alle informazioni del traffico. Che rispetto negli ultimi 5-6 anni l'evoluzione tecnologica dei videogiochi, la grafica, la velocità, la dinamica, è andata un po' a scapito della forza della narrazione, del filo narrativo. Questo perlomeno è quello che mi dicono i miei giovani giocatori in famiglia. Sicuramente dal punto di vista narrativo il videogioco ha molto da recuperare rispetto a un medium più affermato come il cinema. Però anche è anche vero che secondo me la componente tecnologica, quindi questa evoluzione molto forte, ha consentito anche in tempi recenti di portare all'interno del videogioco tematiche che magari non si esauriscono solo nella componente ludica. Ci sono giochi in cui ad esempio c'è la possibilità di ricostruire ambientazioni storiche o anche architettoniche particolari. Quindi in realtà secondo me si sta andando verso una progressiva consapevolezza maggiore del medium, quindi il videogioco sta cominciando ad avere consapevolezza di sé e delle sue potenzialità sempre più. Ecco, io noto una cosa, poi do la linea velocemente, che non stanno telefonando donne, come se fosse una sorta di pudibonda riservatezza, perlomeno dalle ascoltatrici che ci ascoltano e ci possono telefonare, rispetto a questa attività. Invece su Facebook le mie amiche che rispondono e si accapigliano nel mio profilo stanno elencando tutta la serie dei giochi, dei loro piacevoli momenti davanti a una console, davanti a una tastiera. Quindi ripeto anche alle ascoltatrici: quante volte, figliuole, con chi, e ne traeste probabilmente un piacere così immondo non poterlo riferire. Melog 2.0. Parliamo di videogiochi, parliamo dell'immondo piacere che ci procurano, parliamo della riservatezza femminile nel confessare queste frequentazioni, perlomeno dal vivo, perché vedo che su Facebook si stanno aggrovigliando i pareri delle signore con molto dettagliate descrizioni dei momenti ludici, delle console usate, del tipo di gioco, del tempo dedicato. Enzo, buongiorno. Buongiorno, allora anzitutto grazie per aver toccato questo argomento che oltre ad essere tabù per tante ascoltatrici è anche tabù per tanti ragazzi, tra virgolette. Gli argomenti tabù sono quelli che dà più gusto toccare, sempre così. È verissimo, è verissimo. Praticamente dicevo tabù anche per tanti ragazzi della mia età. Io ho 45 anni e sono appassionato di videogiochi dal mitico ping pong o tennis uscito nel 76. È quello che ricordavo prima io, non ricordavo le tese, me lo regalarono a Natale, si attaccò al televisore bianco e nero e si dà questa pallina, no, ci divertivamo molto. Esatto, tra l'altro c'era anche la variante, oltre al singolo si poteva fare il doppio, cioè uno interagiva con due astine anziché con una. Sì, diciamola tutta, c'era l'infame terza variante, pelota, che era uno da solo che tirava la pallina contro il muro. Perfetto. Ecco, abbiamo fatto in due parole un salto indietro nella preistoria, dei videogames. Allora, poi. Allora, dunque, io ho rischiato di non sposarmi 7-8 anni fa a causa di Resident Evil. Poteva anche andargli bene, che ne sa, non si sa mai. Beh, no, non credo. Povera donna, è tanto paziente nei miei confronti anche adesso. Quindi gli zombie di Resident Evil hanno rischiato di trascinarle via dal matrimonio. Sì, esatto. Difatti mia moglie vede il videogioco come un suo antagonista. Le mogli vedono sempre come antagonista ogni cosa che a noi piaccia. Esatto. E l'altro videogioco... La mia è gelosa del Tom Tom, si figuri, prego. Addirittura. E quindi dicevo, l'altro videogioco di cui nessuno ha trattato è un videogioco Ace Combat, combattimenti aerei, ed è un gioco estremamente... intelligente, perché uno parte a pilotare i primi aerei fino ad arrivare a pilotare dei jet. Sì, andava molto di moda, me lo ricordo. Io me lo regalarono, ero già grandino, ma mi annoiai, mi divertiva a schiantarmi con l'aereo, quindi non andava bene. Ecco qua. E quindi dicevo, però la mia riflessione è questa: io tutt'oggi ho questa malattia, chiamiamola così, la sera mi dedico un'ora e mezza alla mia bella console. Giocando attualmente a Resident Evil 4, è una versione insomma abbastanza divertente. Beh, ormai è come un amante, se lo porta dietro da parecchi anni. Sì. Va bene, Enzo, passiamo a Andrea. Salute Enzo, buongiorno Andrea. Buongiorno. Lei lo fa per mestiere di costruire videogiochi? Ma dunque, io ho iniziato la mia carriera professionale, oggi mi occupo di giochi di carte collezionabili. Ma 18 anni fa facevo lo storyboarder, lo sceneggiatore di videogiochi, e mi ricordo quando ancora i videogiochi si facevano su floppy da un Mega 44, una cosa che oggi fa ridere rispetto alle nuove console. E mi ricordo che quando studiavo le sceneggiature io lavoravo per Tex e Simulman, per i videogiochi di Tex Willer. Mi ricordo che si analizzavano i motori logici, cioè il motivo per il quale una persona doveva giocare anziché fare altro, e si andavano a studiare i motori logici, gli elementi narrativi dei film, cercando di portare questi elementi all'interno del videogioco. Cioè, questo dimostra che non è un'attività casuale o semplicemente una macchina che ruba intelligenza e creatività. Io no, però, assolutamente. C'è sempre un grosso lavoro dietro e un grosso pensiero dietro. Grazie. Anna, finalmente, una donna, videogiocatrice. Buongiorno. Quante volte, figliola? Tante. Ma da sola o con altri? Di solito con mio figlio. E lui ha 20 anni quasi e ci divertiamo tantissimo. E cosa giocate? Noi giochiamo tantissimo sul computer. E di solito quelli che creano, tipo, non so, i parchi di divertimento. Ah sì, sì, ho capito. Costruzione di un parco, divertimento. Sì, esatto, oppure anche quelle delle civiltà, eccetera. Però onestamente, Anna, mi dica una cosa. Secondo lei ci sarebbe un'altra occasione per cui una madre può ancora passare ore con un figlio di 20 anni se non avesse davanti un videogioco? Ma noi passiamo tantissimo tempo insieme e questa è una delle tante cose che ci unisce. E abbiamo cominciato con un gioco un po' particolare che io mi ricordavo da quando ero giovane io, ed era Avventura nel castello. Ed era un gioco solo descrittivo, non aveva grafica, era i primi del computer. L'abbiamo ritrovato su internet e abbiamo giocato. Ed è l'avventura all'interno di un castello che si svolge su 3-4 piani e bisogna disegnarsi. In cui lei faceva la regina madre e lui faceva il principe azzurro e spero no, che... No, cercavamo di non farsi ammazzare. Ah beh, mi sembra già un'attività lodevole. Grazie Anna. Raffaele Sogni, esperto in videogiochi della rivista The Game Machine. In conclusione tutto questo abbiamo detto. Ritrovi dei punti comuni con quello che ti scrivono i tuoi lettori, con quello che analizzate nella tua rivista rispetto a questa carrellata di ascoltatori della radio? Beh, i problemi con le morose, con le fidanzate sono all'ordine del giorno. Io stesso devo dire che fortunatamente per il lavoro che faccio è una scusa almeno. Io posso dire sto lavorando vabbè, poi fatto adesso di averlo detto in radio forse è una scusa che potrò usare un po' meno in futuro. Comunque, sì, ti seguirà ogni possibilità di continuare a dire. Comunque sia, il problema principale è che le ragazze in genere non comprendono il videogioco, cioè non capiscono cosa ci sia di tanto divertente nel videogiocare. Poi ci sono delle interessanti eccezioni ovviamente, però mediamente quando la fidanzata vede il suo compagno davanti ai videogiochi pensa che sia un decerebrato. È singolare perché nella possibilità, nelle scelte di combattenti in tutti i giochi di guerra e di avventura c'è sempre la mercenaria donna, quindi avrebbero possibilità di essere rappresentate all'interno di un videogioco. Daremo risposta a questo equivoco, questa domanda, questa perplessità in una prossima trasmissione. Intanto ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.